fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi vorrei fare una trasmissione dalla crudeltà inaudita. Per questo mi appello soprattutto alle donne che mi ascoltano. Avete una grandissima occasione, un'occasione unica per dimostrare veramente ciò che conta nella vita. Ci siamo cullati per generazioni sul fatto che un uomo sia bello per ciò che ha dentro, che un uomo sia apprezzabile al di là del suo potere d'acquisto, che non importa quella che sia la forma, quella che sia l'apparenza, quello che sia il possesso, un uomo può essere bello, splendido, se è splendida la sua anima. Dimostratemi questa mattina che sono tutte fandonie. Quanto conta il potere d'acquisto nel fascino maschile? Forza, confessiamoci. Siamo quelle che si inteneriscono per il calzino scalcagnato e la giacchetta comprata in saldo? O siamo quelle che guardiamo subito la marca scritta sull'elastico delle mutande? Chi riteniamo sia più sexy a parità di prestanza fisica e capacità intellettuale? Quello che ha soldi è curato, levigato, profumato. Ha le unghie dei piedi che non graffiano e le lenzuola dello scannatoio fragranti. Un'automobile alta e scura e non permette che mettiate mano al portafogli nemmeno per comprarvi le sigarette? Il mezzo morto di fame, il parsimonioso controllato, il taccagno che vi fa tirare fuori la vostra parte quando vi trascina in pizzeria dove i vestiti vi puzzano di fritto dopo 5 minuti. Quello che non è capace di rimediare un posto decente per l'intimità? Quello che prova a convincervi che farlo in macchina è molto trasgressivo? Abbiamo definito due categorie umane di genere maschile. Oggi la trasmissione è essenzialmente dedicata alle donne. Spero chiamerete numerose 800 24 0024, a meno che non siate schiave di questo eterno pregiudizio, di questa necessità di mostrarvi buone, comprensibili, sempre mamme, da 18 agli 80 anni, sempre pronte a coccolare quell'uomo schifoso che vi fa pagare la vostra parte quando vi porta a mangiare fuori. Non so perché, ma ultimamente faccio caso, tutte le volte che mi capita di uscire per una veloce colazione o per una cena, ma sempre per motivi solamente amichevoli, con una signora, con una ragazza, questa mette sempre il portafoglino in mano. E quanto è la mia parte? Come se fosse abituata, come se fosse scontato che se esce con un uomo, l'uomo deve sempre chiedere a lei la sua parte. È rarissimo, ti guardano come un alieno, ma non perché io sia ricco, perché trovo, non lo so, forse è un mio condizionamento, indispensabile. Se porti una donna a mangiare assieme a te, sei te almeno la persona che offri quel minimo di presidio gastronomico alla persona che è con te. Invece no, invece è un'abitudine reiterata e ormai entrata nell'uso comune che l'uomo non è più quella persona che deve anche avere il potere d'acquisto. E invece sono profondamente convinto che sia indispensabile, sia necessario, che una persona debba avere abiti fragranti, avere abiti di buon taglio. Una persona deve essere splendida, avere una bella casa, deve essere sempre pronto a dare il massimo. Questo perlomeno è nel sogno, nell'allucinazione più estrema di ogni immaginario femminile. Ditemi che non è vero, ditemi che mi sbaglio, ditemi la mia è una visione del tutto retrograda che non tiene conto di quella che è la sensibilità femminile. Bene, allora godetevi questi esseri meschini, questi esseri sporchetti, questi esseri che non curano la loro igiene, ma non perché non vogliono spendere, perché non ritengono che sia necessario impegnarsi a investire sulla propria persona, sui propri beni. Questa è una trasmissione politicamente scorrettissima e vi prego, 800 24 00 24, datemi il vostro contributo. Ritenete che quelli che seguono siano i punti di caduta del fascino maschile? Unghie poco curate, abiti goffi e fuori moda, capelli unti, pidocchieria pecuniaria, uso parsimonioso del dentista, difficoltà di movimento data da limiti di budget, carenza di prime o seconde case per consumazioni sessuali, uso profilattici riciclati, abbonamento dell'autobus nel portafogli, basilare anonimato in luoghi di ritrovo, locali, feste dove gira bella gente. O invece ritenete che queste caratteristiche siano sintomo di bellezza interiore? In insomma, è proprio vero che nell'amore non contano i soldi? O è un'altra di quelle storielle consolatorie per uomini svantaggiati? Un'altra di quelle pietose bugie come quelle che già girano sulla scarsa importanza dei tempi di durata e delle misure virili? 800 24 0024, naturalmente anche i miei colleghi uomini possono rispondere. Coloro sono costretti ad andare negli outlet, negli hard discount, per comprarsi il vestituccio che perlomeno abbia una parvenza di marca, per fare una buona figura, quando sanno che comunque questo conta, questo ha un senso. Coloro che risparmiano, rimpannucciano, mettono da parte, cercano di fare gli splendidi perché sanno che è importante fare lo splendido almeno una volta. 800 24 0024. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Oh, vediamo un po' se lei riesce a dirmelo sinceramente. Io naturalmente ho questo tono provocatorio perché sono perfettamente convinto che sia ora di gettare la maschera. Se non avessi questa bella camicina policroma addosso, non avessi questo simpatico giubbottino che all'interno è la mia giacca firmata, non avessi queste scarpucce che fanno un bel rumore quando cammino, chi mi guarderebbe? Nessuno. Quindi il mio potere d'acquisto determina il mio fascino. Lei è d'accordo? Credo che tutto dipenda dalle persone, ovvero a una prima occhiata sì, sicuramente l'aspetto fisico può giocare un ruolo fondamentale. Scusi se la interrompo, Alessandra, poi la lascio andare avanti. Io dicevo a parità di condizioni psicofisiche, cioè noi prendiamo due uomini uguali, e ugualmente prestanti, ugualmente belli, ugualmente affascinanti, ugualmente intelligenti. L'uno ha un potere d'acquisto che gli si legge addosso e l'altro, poverino, invece è una persona dignitosamente dimessa. Però è chiaro che ha avvantaggiato il primo? Non credo, perché la parità delle persone può essere una parità che li mette a confronto l'uno con l'altro, ma la persona con cui si confrontano, quella che deve sceglierli, non li può vivere come uguali, nel senso sicuramente ce ne sarà uno che sarà più affascinante, più intrigante, quindi avrà questa chance da un punto di vista intellettuale che l'altro invece magari non potrà giocare. No, lei sta nuovamente giocando sul luogo comune del bello dentro. No, sono tutti e due belli dentro, entrambi belli dentro. È la stessa persona, le immagini come Big Jim che può vestirlo con un vestituccio comprato a grandi magazzini oppure con un bel vestito. Immagini questo. Dal punto di vista intellettuale la persona è stimolante? No, almeno per me vale più quello che... Allora, entriamo nella fattispecie. Questa persona la porta a cena fuori, la porta in pizzeria, che lei esce fuori che puzza di fritto per una settimana, la porta in un bel posto, raffinato, non dico necessariamente opulento, dove lei sente a suo agio, lo vede muoversi a suo agio, vede lo chef che lo conosce, insomma, sembra come abbandonarsi a un piacevole flusso. Sì. Fa la differenza questo? Sì, fa la differenza, però non lo so, passando l'esperienza personale è tutto facile dare un giudizio. Sì, a volte non si vuole sbilanciare. No, non sbilanciare, che sono valide tutte e due le ipotesi. Allora, vado avanti. Finita la cena, dice andiamo a bere qualcosa a casa mia. Okay. La porta a casa che divide con altri due amici, colleghi, ficcati in una stanza. Forse la differenza potrebbe farlo nella vita privata. Ecco, già entriamo. Ma lì si vede il potere d'acquisto, poi uno può fare anche il grande, andare con il maglioncino, dipende dalle carte di credito che porta nel taschino della camicia. No, non di quello, sicuramente l'ambiente diciamo dove esprime se stesso, dove vive se stesso da un punto di vista privato. Le lenzuola comprate ai grandi magazzini in fibra sintetica hanno un cattivo odore e sono ruvide sulla pelle, le lenzuola di seta fanno un'altra impressione. No, non è così... Va bene. Secondo me valgono entrambi, è troppo... Va bene, lei si accontenta, mi fa piacere, ognuno ha il suo punto di vista. Grazie Alessandra, 800 24 0024. Siete tutte come Alessandra o i particolari? Io continuo a insistere, secondo me hanno un peso. Ma hanno un peso perché mi rendo conto molte volte quando non li abbiamo a disposizione ci manca qualcosa. Voi direte siete degli insicuri, basate le vostre sicurezze su questi apparati esteriori, ma non conta nulla, l'importante è che voi siate intelligenti e voi siate belli dentro. Non ne sono del tutto convinto. È chiaro che se la persona non è interessante può avere tutti i soldi di questo mondo, ma non è interessante, punto chiuso. Quando un uomo mi propone la serata fuori per conoscerci meglio, piuttosto che, come è capitato nella mia esperienza, un semplice weekend da qualche parte. Conta se mi porta a Rimini piuttosto che a fare un bel weekend a New York, magari a Natale o a San Valentino. Al suo peso è come se ce l'ha. Secondo me si hanno molte remore a dichiarare questa cosa apertamente, mentre invece penso che non ci sia proprio niente di male. Ecco, una nostra ascoltatrice che abbiamo recuperato ieri dopo aver lanciato su Facebook la domanda fatale se il potere d'acquisto ha il suo peso nel fascino maschile, ci ha detto tranquillamente, liberamente, che in effetti un piccolo peso ce l'ha, la piccola differenza c'è. È chiaro che il colpo d'occhio conquista immediatamente la fascinazione, la questione di pelle, ma anche la pelle stessa è una pelle diversa se ben curata, se ben trattata, se ben mantenuta o se lasciata alle intemperie, lasciata alla trascuratezza. E anche il potere d'acquisto conta nel mantenimento della pelle. È chiaro, e ripeto qui il concetto per non essere frainteso, non sto mettendo contrapposti un uomo splendido, un uomo di valore, un uomo intelligente, un uomo di fascino e un uomo vacuo rivestito solamente degli orpelli del proprio potere d'acquisto. No, sono due uomini che si equivalgono. Anzi, pensate allo stesso uomo, pensate a un bambolotto una volta tanto, pensate a un uomo oggetto, pensate rivestito di un abito dimesso, pensate rivestito di alcuni segni esteriori e palpabili di potere d'acquisto. Conta questo nel fascino di un uomo? Conta anche il come ci si presenta in società. Quindi una persona interessante che mi porta in giro col macchinone, mi porta a mangiare nei bei posti, mi regala l'anellino di Bulgari piuttosto che di Cartier, mille volte tanto rispetto all'intellettuale di turno che mi attira molto, che però mi porta a mangiare in pizzeria piuttosto che mi regala l'anellino invisibile che non so manco di chi sia. Ci sono molte persone che pensano di rendersi interessanti ostentando qualcosa che non fa parte di loro, quindi una certa dimestichezza con quella che io definisco la galanteria e la signorilità, quindi quei gesti normali oggi tante volte ripudiati, tipo pagare la cena piuttosto che fare in modo che la donna non tiri fuori neanche i soldi per i taxi, ecco. Dopo un po' viene fuori se stai fingendo, neanche il più grande uomo scafato del mondo riesce a fingere per più di poche manciate di minuti, ecco. Se un uomo dovesse scegliere fra me e una mia amica, per il fatto che la mia amica possiede la casa Cortina o a St. Moritz e io non ce l'ho, pazienza, è il rovescio della medaglia. È inutile che cerchiamo di svicolare fuori da quelle che sono le logiche della contemporaneità che ci dà sostentamento, che ci mantiene e ci permette di relazionarci, di vivere socialmente con il nostro prossimo. Questa donna ha espresso sinceramente quella che è una sensazione che dentro abbiamo tutti. La rimuoviamo perché ci si sente in colpa, ci si sente meschini, si prova vergogna per il fatto di dare realmente peso ad alcuni aspetti esteriori che indubbiamente rappresentano il tessuto connettivo del successo, ma lo ammettono soltanto, non so, le veline che vengono intervistate nei programmi del pomeriggio televisivo, lo ammettono soltanto le persone che noi consideriamo degne di disprezzo perché appartengono a uno star system, a qualcosa che è lontano dalla percezione della persona comune. Ma anche noi, misere, modeste persone comuni, ci lasciamo prendere molte volte dal fascino e dal potere di poter avere disposizione e facilmente e liberamente un'infinità di piccoli accessori di lusso al vivere quotidiano. Cecilia, buongiorno. Oh, buongiorno carissimo. Stavo scherzando prima, non si monti la testa, sono miseramente vestito perché in realtà sono un poveraccio rispetto a quello che al modello maschile che voglio allucinare questa mattina. Sì, ma anch'io mi accontento, cioè come la signora che è intervenuta poco prima. Cioè a me questi soggetti troppo curati, troppo lavati, troppo pettinati non è che mi interessano molto. No, ma qua stiamo parlando di un solo e unico grande profumo, che è quello del denaro e del potere, esatto, d'acquisto. Esatto, è quello. Cioè certi segni appunto esteriori del denaro mi fanno pensare poi a una certa deboscia, non so come spiegare. Certo vedo che la maggior parte delle donne tira dove vede appunto che c'è il soldo. Cioè nel senso, ho sentito dire più volte anche da molte mie amiche, dice, lui arrivava con macchinone super mega galattico e io con quel ciaino, figurati se mi azzardavo a dirgli qualcosa. Ecco, molti uomini mi hanno scritto, dice, io lavo la macchina quando esco una donna, all'appuntamento porto la macchina a lavare, perché nella modestia e l'automobile tutti i giorni, la mia macchina abbandonata a 12 anni nella strada sotto casa, cioè dentro degli allevamenti di nutri, quindi sì, si figuri. Anche nella mia ci sono gli strati geologici. Sì, però fa schifo portare una persona su cui si vuole fare colpo dentro una macchina che puzza, diciamo la verità. Cioè, però, ecco, ho provato anche l'uomo con il soldo, però cioè, c'è sempre, in un certo senso, da stare poi, sempre, c'è uno sforzo immenso, perché c'è sempre poi da stare sempre alla loro altezza. Ah, ecco, senso, benissimo, lei ha toccato il punto. Il problema è se il potere d'acquisto è eccessivo, lei si sente, cioè, se c'ha le mutande comprate da intimissimo, magari dice, mamma mia, come potrò essere all'altezza del suo boxer super firmato? Esatto, cioè io se sto con un uomo, cioè, mi deve prendere così come sono. Cioè, ma lei è donna, però lei c'ha il vantaggio che è donna, quindi ha sempre un gradino più alto. Non posso tutti i giorni stare a curarmi, a cosare, a dimostrare qualcosa. Io sono così. Quindi il morto di fame tutto sommato rassicura. A me sì, a me mi rassicura molto. Cioè, lo so. È facile schiacciarlo con un semplice profumino comprato al grande magazzino se lui puzza di sudore e basta. Cioè, anche l'uomo col soldo, cioè, nel senso, ho provato anch'io, e questo mi diceva, per esempio, una cosa tra le tante, ma tu devi fare sport che ti introducono nella buona società, devi fare equitazione, devi fare di qui, di là. Ma come si fa? A me mi piacciono gli sport da combattimento, a me mi piace il kung fu, cioè, roba che si suda, mi piace la box, io non posso, cioè... Ma lei che fa, li mena gli uomini, scusi? No, anche quella così. È una passione. Ecco, anzi, molti uomini danarosi amano questo genere. Ecco, capito. Io la vedo così, insomma, la faccenda. Vabbè, ho capito. Lei è una condizione intermedia rispetto al modello spregiudicato di femmina cacciatrice soltanto di uomini di cui trapelli l'odore del denaro, però dice quella cosa, in fondo, se non fa venire complessi di inferiorità, è un vantaggio. Sentiamo Elena cosa dice. Elena, buongiorno. Buongiorno, io sono in macchina, adesso mi fermo così posso parlare liberamente, ho sentito la sua introduzione. Guardi, io rischio molto questa mattina, Elena, mi sia di conforto perché mi taglieranno la gola per lo spoliticamente, il politicamente scorretto che sto impugnando questa mattina, ma sono convinto che ahimè... Lei ha pienamente ragione, ecco, io grazie. Che ho 66 anni le dico che al giorno d'oggi con la cultura che c'è, sicuramente l'uomo bello, profumato, ricco, pieno di soldi che ti... Pieno, mica pieno, sedi, eccetera, anche se non fosse laureato in lettere, fa colpo. Sicuramente è una persona sulla quale uno, non dico tanto, ma può costruire un futuro. Perché, senta, ragazzi, stabiliamo... Siamo in una situazione dove abbiamo voluto la parità e allora ci paghiamo la pizza, ragazzi. Elena, stabiliamo un punto medio di fascino... per potere d'acquisto. Allora, il ricchissimo è pacchiano e non ci interessa, mi sembra di capire. Colui che lo ostenta, ma che lo ostenta in maniera eccessiva. Però l'importante... Ma se trovo un ricchissimo che non ostenta? Ah beh, certo, se lo prende. Mica... Sono pure fortunata, sì. O no? Ma diciamo, quali sono i segni del benessere che danno piacevolezza in un rapporto? Accorgersi che è una bella casa, ti porta una bella casa, non so, una facilità di muoversi nel mondo senza dover guardare sempre al soldo. Ci sono delle persone fastidiosissime che ti fanno dei grandi discorsi sul costo della vita, che è vero, assatana tutti noi questa cosa qua, ma è quanto di meno affascinante ci sia parlare dei prezzi che salgono, no? Esatto, purtroppo. È la quotidianità della vita, se tu hai di fronte una persona che invece non ti parla di tutto questo, magari ti parla di un cinema, di un libro, di una cosa così, e in più ha una bella casa, ha una posizione buona e viaggia nel mondo come se fosse a casa sua, voglio dire, uno non è che sta lì tanto a guardare, ragazzi. Se in più è pulito, ordinato, perché di solito quella categoria lì è anche pulita e ordinata, Dunque io leggo adesso il messaggio di Christian, perché adesso cominceremo a sentire degli uomini che mi sta scrivendo su Facebook, perché in realtà è giusto che il mondo maschile si senta aggredito, dice ma tu cosa fai, ci stai rovinando la piazza, mi dice Gianluca, quanti stereotipi, poi mi sembra una diatriba per persone anzianotte. Beh, le persone anzianotte innanzitutto sono quelle che hanno avuto un maggiore possibilità di assaporare i sapori della vita e possono naturalmente decidere meglio. Dice, non sono ricco neppure benestante, ma ho gusto e quando esco una ragazza cerco di essere al top, anche se con la mia auto di seconda mano e quando vado a prenderla in moto. Poi so che colpisco per la mia personalità e non per il mio conto corrente. Beh, tanti auguri Christian, immagino che lei sia giovane, la vita le insegnerà che arriverà un giorno qualcuno che oscurerà la sua moto, la sua simpatia, il suo scarso conto corrente. So che è triste quello che dico, so che è bruttissimo, so che è politicamente scorretto, ma ahimè fa parte dell'amarezza della vita che ci tocca vivere. Melog 2.0. Dunque io ho avuto una storia sia con Libby scalcagnato che vive nel caos, che pulisce la casa una volta l'anno, se va bene, che addosso spesso e volentieri un odore, diciamo, di sudore, che con il miliardario che mi portava nel ristorante di lusso all'ultimo grido e aveva una meravigliosa casa eccetera. Io posso dire però che sia in questo caso che nell'altro che interessava a me era sicuramente come era fatto lui dentro, perché quello che sapeva dare, come sapeva darlo, ciò che io volevo, e io volevo in fondo alla fine sempre sguardo, tenerezza, profumo, un'intelligenza nelle battute, la favela sciolta, il look e l'arredamento della sua casa che riflettono la sua personalità, oppure l'inquietudine nello sguardo, i contrasti che possono essere appunto il fatto di essere un po' stronzo, tra virgolette, ma allo stesso tempo sofferente, dolce, eccetera. 800 24 00 24. Oggi stiamo definendo quale sia la percentuale del fascino maschile contaminata dal suo potere di acquisto. Non fraintendiamo, perché mi scrive Simon e dice sto cercando la prova scientifica che Ricucci e Cecchi Gori siano bellissimi. Se la trovassi, tutta la teoria che le donne sono potenzialmente attratte dagli interessi svanirebbe con una bolla di sapone. Non mostrate questi esempi paradossali di persone con un alto potere di acquisto e con un'indiscutibile carenza di fascino, di profondità. Non è questo il punto. Noi diciamo due uomini, anzi lo stesso uomo. Ripeto, Big Jim, il pupazzo di plastica, il Barbie maschio, Ken. Ecco, lo prendete tale quale com'è, bello, muscoloso, è carino, sorridente. Lo rivestite con gli aspetti esteriori, con i segnali esteriori di un placido benessere, non una ricchezza pacchiana, ostentata da miliardario mafioso. Non è questo il discorso, semplicemente con una facilità, con una capacità, quelle cose che cogliete, vi accorgete che la camicia è di buon taglio, vi accorgete che ha le unghie curate perché va dalla manicure almeno una volta a settimana, vi accorgete che ha un bel orologio, non quello pacchiano, oro e acciaio, dal nome altisonante con la coroncina, ma un bel orologio, tranquillo, parla affabilmente, cita luoghi del mondo che lui ha passato con la stessa facilità con cui potrebbe raccontarvi che va a fare la spesa al supermercato. Questo è il segno dell'opulenza. Un uomo che invece vi fa il triste resoconto del suo magro stipendio, vi dice quanto siano aumentati i prezzi, quanto costi quella cosa, quanto sia brutto andare al ristorante e spendere tanti soldi, e vi parla della sua quotidiana micragna con la quale tutti noi abbiamo a che fare. Ma quanto di più spoetizzante ci sia, non si può raccontare nel momento della seduzione, nel momento del fascino, che magari si va a fare la spesa in quel tal posto perché fanno lo sconto. Una cosa tristissima. Non ha assolutamente importanza per me la ricchezza, la professione, eccetera. Non ho mai lasciato pagare il miliardario, ho voluto sempre fare a mezzi pure col miliardario. Guadagnavamo tutte e due allo stesso modo e dato che non mi convinceva nel modo in cui mi faceva sentire, non mi convinceva nel suo modo di essere, ovviamente io mettevo i paletti, non lo facevo pagare, perché far pagare qualcuno è come dar modo all'altro l'altro di entrare nella sua vita come una moglie, perché a chi paghi tutto in fondo? Perché magari c'è la comunione dei beni, alla moglie c'è assoluta scioltezza e quel che sarà sarà dopo, perché se si sta bene queste domande non te le poni, non stai con l'ansia lì al ristorante a pensare a tutte le formule sociali, non ci pensi, se stai bene stai bene. Prego signora, chiuda gli occhi perché la camera è in disordine. Manovro la maniglia, richiudo senza mai voltare la schiena alla signora. Ah, senza mai voltare la schiena alla signora. Prego signora, la pelliccia. La pelliccia. Ti prego Alberto di non dimenticare mai tutto ciò. Senz'altro. Queste sono da considerarsi regole. Permette. Grazie. In ogni caso. In ogni caso. In ogni caso. Niente. Boni. Siccome voi l'educazione non me l'avete mai insegnata, così io cerco di apprenderla dal signor Conte. Bella riconoscenza, con tutto quello che abbiamo fatto per te. Vabbè, non è questione di riconoscenza, è che voi venite dal basso. E tu vieni dall'alto? No, io non vengo dall'alto, ma cerco di migliorare. Scusi, signor Conte, facciamo una seconda ipotesi. Ammetta che io debba far uscire una signora dalla mia stanza. Io sono ancora in pigiama. La signora ha passato la notte con te? Sì, la signora ha passato la notte con me. Vergogna, spoccaccione. State zitta, che sta a sentire tu? Aspetti un momento. Scusi, signor Conte, solo per un attimo, ammettiamo che lei sia l'amante. Sì. L'accompagni fino alla porta, lei mi segue, signora, lei mi segue. Ecco, l'accompagni fino alla porta. Accompagni fino alla porta. Apri la porta. Apri la porta. Le baci la mano. Il piedino. Il piedino. Perfetto. E la fai uscire. E la faccio uscire. Esca. Esci. Esci. Esca. Vada. Devi andare via? Sì, via. Vattene via. Via. Ecco, solo quando la signora è uscita tu chiudi la porta. Chiudo la porta. Mai la porta in faccia. Ah, mai. Perché questa è una regola da non dimenticare. Come non ricordare il conte Max, Alberto Sordi, squattrinato edicolante, che vive con la zia Tina Pica, con un certo zio Giovanni, e con il desiderio di conoscere il bel mondo. E quindi si va a dare lezioni di opulenza da un nobile decaduto, che è appunto Vittorio De Sica, che gli insegna letteralmente quelle che sono le regole per simulare di appartenere a un mondo meraviglioso. E lui comincia a impersonificare il conte Max Orsini Varaldo, che è un conte inesistente. Comincia a frequentare il bel mondo e ci credono, perché c'ha un suo savoir-faire, c'ha un modo di fare. Però naturalmente, quando ci sarà la prova del 9, quando proverà ad andare a Cortina con un gruppo di nobili pieni di soldi, ricchi, che non hanno nessun altro interesse nella vita che vivere in maniera estrema la propria esistenza, cominceranno a venire alla luce le magagne, non sa giocare a carte, a canasta o questi giochi che fanno i ricchi, e quindi lentamente si accorgeranno che lui è un morto di fame, e infatti gli rimarrà come consolazione di impalmare la serva della famiglia dei nobili di cui lui appunto mirava alle rampolle di alto lignaggio, e ognuno ritornerà con le sue aspirazioni, i suoi desideri al punto di partenza. Laura, buongiorno. Pronto, buongiorno. Lei ha conosciuto dei conti Max? Dei conti Max veri o dei conti Max? Da qualcuno faccia finta di avere i soldi, ma si capiva subito che era un micragnoso impenitente. Sì, decisamente sì, anche perché nel momento in cui, dopo la bella macchina, il bel vestito, uno affonda un pochettino la lama, forse un po' brutalmente, ma è così, sulla casa, sul lavoro e sul 7.40, come gli americani, il tutto poi crolla. Cominciamo a vedere, facciamo un tracciato del simulatore. Allora, è facile simulare innanzitutto sull'aspetto esteriore. Oggi abiti apparentemente di buon taglio si trovano a prezzi stracciati, basta andare in un outlet, basta giocare con i saldi. Bravo. Si maschera abbastanza. Sì, anche con la macchina. La macchina si può prendere in leasing, si prende in affitto. Benissimo. Nella provincia italiana, io so che nel Bresciano, per andare la sera in piazza a farsi vedere dalle signore, si affitta una macchina per un sabato sera, che in fondo con poche centinaia di euro si fa con un gruppo di amici, e quindi si fa facendo vedere la macchina. Addirittura adesso ci sono anche delle associazioni, addirittura una si chiama, non lo dico, ma un'associazione in cui tu praticamente paghi una quota annua e puoi utilizzare tutti i mezzi che ha a disposizione questa associazione, quindi la bella macchina, il bello orologio, la bella barca. Ma con questo si fregano le sciampiste, le povere ragazzine, le commesse di negozio, non una professionista infatti, come lei, no? Infatti il problema cade sul 7.40. Ecco, lei come fa a affondare la lama? Una volta, diciamo, spogliato il di questo... Dove lavori? qual è il tuo lavoro, qual è la tua mansione, qual è la tua società, se è tua, qual è il ruolo che hai all'interno del tuo contesto lavorativo. Ovviamente se la persona non è quella che dice di essere, crolla, c'è poco da fare. Quanto può durare il bluff, diciamo, in ordine di tempo? Arriviamo, guardi, analizziamo punto per punto. Lei ha detto bene la tipologia di persone. Con determinate persone può durare anche qualche mese. Con una persona che ha un po' di esperienza non dura nulla, anzi gioca la persona. Nel pieno rispetto per le sciampiste già vedo proteste su Facebook. Lo dico perché è una categoria ormai che è entrato... No, mi scusi, non è la sciampista. Poverina, la sciampista è una bravissima ragazza. Solo che non capisce. Non ha l'esperienza, non è che non capisce. Non riesce a capire che l'orologio, che Rolex è finto, ecco, per dire, capito? La macchina no, è presa in affitto. Viene illusa da un atteggiamento che l'uomo sa che piace alla donna. Deve imparare, ecco, non è un disprezzo, ma la considero come una verginità sentimentale da superare. La cosa terribile è quando poi l'uomo si trova nudo, quello è il momento veramente incredibile. Da cosa si capisce? Secondo me si capisce dallo stato delle unghie dei piedi, perché un uomo che non frequenta il pedicure, che in fondo ha un prezzo, si vede. Anche le unghie delle mani, ma a parte questo, il momento in cui si parla in maniera diretta di certi argomenti, l'uomo crolla. E il problema è che quando l'uomo crolla, fugge, scappa, ha il problema, no, adesso devo andare via, ho un impegno, cioè è messo a nudo l'uomo che si... È un'ansia da prestazione economica, diciamo. Cosa? Un'ansia da prestazione economica. Ma no, un'ansia da voler dimostrare quello che non è. È meglio la coerenza, come diceva lei. Una persona che è quello che è e probabilmente può essere apprezzata per quello che è. Non il fingere per far colpo. Far colpo per che cosa poi? Per andare magari a divertirsi una sera? Insomma, per prendersi laurea, papparsela con piacere, bravo, per una serata, bravo. Non è male. Ma allora a questo punto l'esperienza di una persona che si diverte all'opposto è veramente straordinaria, perché poi l'altra persona crolla in maniera proprio banale, sembra un ragazzino di 18 anni che non sa le sberle da dove arrivano. Bellissimo. Bene, come vedete 800 24 00 24, andando a cercare, affondando e chiedendo sincerità, viene fuori veramente quelli che sono i rischi di chi bleffa, di chi tenta di dare e abbagliare queste povere ingenue signore con il fatto che lui abbia un potere d'acquisto eccessivo rispetto alla realtà. Melog 2.0. Il denaro e il modo di usarlo dicono molto dei valori impliciti che sottendono una coppia. Sappiamo che inconsapevolmente ci si innamora della persona che ci assomiglia o di quella che colmerà i nostri vuoti. Per esempio, nella coppia, l'uno farà la parte del protettore, l'altra del protetto. L'uno sarà attivo, l'altro piuttosto passivo. L'uno sarà concentrato su se stesso, l'altro traboccante di altruismo, a meno che i coniugi non si corrispondano riflettendosi ciascuno nell'altro. In questa distribuzione di ruoli, il denaro può essere un valore rivelatore. È un oggetto relazionale per eccellenza e riflette gli equilibri o gli squilibri sui quali si costruisce l'unione di due persone. L'unione di due persone. Questo soltanto per farvi capire che poi il bluff, se continua, se va avanti, se la coppia poi si stabilisce su un rapporto sbagliato all'inizio, cioè sulla simulazione di un potere d'acquisto non paragonabile a quello che poi è la realtà, è difficile mantenerla. Questa scheda è tratta da un libro che è stato pubblicato da poco da Castelvecchi, Paghi tu, il denaro della coppia, scritto da una coppia di francesi, Bernard Poirier e Sophie Guillot, che racconta appunto quale sia poi il problema, una volta che la coppia si è stabilizzata, nel determinare chi tenga in mano in quel momento lo scettro del maggior potere d'acquisto, e molte volte, come avete visto, diventa anche un elemento vessatorio, tutto perché è stato male impostato all'inizio. Quindi cercate di bleffare bene se volete raggiungere obiettivi di vicina conquista. Attenzione al bluff se poi voi diventate una coppia basata su un equivoco di partenza, che abbiate un potere d'acquisto superiore a quello che realmente voi potete permettervi. Prendiamo una coppia in cui l'uomo è occupato moltissimo dal suo lavoro, mentre lei ha smesso di lavorare per fare la mamma. Lei riceve i soldi con il contagocce per far funzionare la casa. Apparentemente c'è accordo ed equilibrio, invece è il contrario. In questa relazione basata sulla dipendenza economica, ciascuno mantiene e anzi rinforza l'altro nel suo comportamento. Più la donna accetta di stare sotto il dominio di suo marito, più quest'ultimo, grazie al denaro che le elargisce, le fa sentire il suo potere. E può spingere certi uomini a dire: Dal momento che sono io a portare i soldi a casa e mia moglie li spende, penso che mia moglie non abbia niente da dire se faccio tardi o se mi vede troppo poco. Lasciatemi in pace con quello che porto io a casa, ho diritto a stare solo. Questa è la frase dell'imperatore tiranno e vessatore in famiglia quando lui a portare il denaro. Ma c'è anche chi vuol fare l'elogio del povero Mabello, che è Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti, buongiorno. Grazie di avermi richiamato. Sono qua, due matrimoni, due convivenze. Lei è stato sempre amato, non per il conto in banca che è alquanto misero. Per cosa è stato amato, quindi? Semplicemente per quello che era, per quello che ognuno di noi forse è. Perché è bello dentro? Ma sì, perché la verità in amore non, cioè è tutto, le bugie hanno veramente le gambe corte, secondo me. La meraviglia dell'amore è che noi ne vediamo soltanto una piccolissima parte, quello che sta dietro le spalle è molto condizionato da cose che noi non conosciamo. Oddio, per me è immenso l'amore, nel senso che ritrovandolo poi nel corso degli anni è una cosa che, anche se non cerchi, ti può arrivare. Sì, però lei mi parla di quattro rapporti in sequenza. Se a un certo punto sono finiti, c'è stata una fatale circostanza per cui si è esaurito questo amore? Grazie a Dio non sono state fatali, cioè nel senso che il primo mio matrimonio a 20 anni, sa, facevo un po' il disgiochi, io ormai sono a Rimini, mi chiamo da Forlì ma sono in strada, e quindi è stato un amore, diciamo, giovanile. Dopo di questo, il secondo è stata una convivenza, però ci siamo innamorati, cioè ogni volta si sentiva nella semplicità della cosa di dire la verità, cioè proprio... Sì, ma era tanto semplice che poi alla fine finiva sempre. Ma il fatto è questo, che non puoi mentire dopo. Quindi lei mi dà ragione che per mantenere in vita un amore bisogna anche avere capacità di sostenerlo non soltanto con la propria bellezza interiore. Assolutamente sì, questo è vero. Da parte mia c'è stata la fortuna o sfortuna di non avere figli, quindi quando ci si lascia proprio da persona a persona, da uomo a donna, si ha quel minimo di tempo per ragionare, per capire che non hai più quella passione. Poi niente, noi in Romagna siamo... Sta uscendo dal seminato, Giovanni, lei la vedo molto confusa, sta rendendosi conto adesso in questo momento, ahimè in maniera molto cruda, che se lei non avesse avuto quel conto in banca così miserrimo, forse gli amori sarebbero stati più tenacemente attaccati alla sua persona, di profonda e inestimabile bellezza interiore. Belinda, buongiorno. Buongiorno. Intanto grazie per avermi richiamato e credo che sia una trasmissione molto interessante perché ci esponiamo, perché diciamo la nostra realtà, diciamo le cose brutte che sentiamo, diciamo profondamente, diciamo le cose vere più che altro, perché noi non siamo belli dentro, credo, no? La cosa più importante è analizzare uno spaccato di vita che diciamo non ha classe, allora, sociale. Ci faccia analizzare il suo spaccato, Belinda, arriviamo al punto, perché ha chiamato lei? Io ho chiamato per dire che sicuramente non esiste, non funziona il due cuori una capanna, la felicità 100% se non si arriva a fine mese, secondo me è proprio una fesseria, una bugia. Ok, la micragna ammazza l'amore e la passione. Sì, è così, non solo è triste. Le micragne, anche il dover fare conti, la micragna, cioè dover fare i conti diciamo con una realtà che sta stretta. Sì, è brutto dire, ma no, stasera non andiamo al ristorante, facciamoci due spaghetti in casa. È brutto dirlo se uno lo fa perché non vuole spendere. Bellissimo se ha una casa meravigliosa. Preferisce l'intimità di casa propria. Sì, ma una volta, due, tre, la quarta volta uno si stanca, capisce che lo fa. È una scelta di minoranza, ecco, sì. Di rimessa. Io posso diciamo dare il mio umilissimo contributo per quanto mi riguarda, per grazia di Dio non ho brutte acque, vivo una situazione molto serena economicamente parlando. Quindi, sta già bene del suo lei, questo vuol dire, Belinda? Sì. Sì, sono tra l'altro sposata e sto benissimo, per cui posso dire che questo sicuramente aiuta la serenità di un matrimonio, di un rapporto di coppia, non dovere appunto stringere su tutto e non dovere sempre diciamo rinunciare. Io so che quello che diciamo questa mattina risulterà come uno schiaffo alla miseria, io so che noi tutti, e ci piace scherzare su questi argomenti, poi abbiamo un'infinità di problemi legati al quotidiano, alla gestione del quotidiano, ma fateci per una volta almeno illudere che viviamo tutti in situazioni talmente agiate che le nostre regge che ci ospitano sono degne dei nostri cattivi pensieri. Grazie Patrizia, buongiorno. Buongiorno Gianluca, complimenti intanto. Hanno cercato di accalappiarla con i soldi. No. questo è, no, non è proprio così. Per la verità, io trovo un'altra categoria, ma probabilmente il problema è mio, perché è una cosa che si ripete. Quello che in magari al primo appuntamento, cercando di sedurre, mi racconta tutte le tragedie della sua esistenza. E questo è tristissimo, perché come dicevi poco fa, non c'è, cioè siccome la sindrome della croce rossina in genere colpisce le donne quando sono ancora giovani, no? Giovani, molto giovani, 15-20 anni, una sente di poter rimediare, di poter cambiare, di poter sostenere. Poi dopo, io ne ho 45, a un certo punto, cioè si tenga gli accidenti suoi, cioè se uno deve cercare di sedurre e ti racconta che c'ha una collezione completa di ernie, che c'ha la sua ex moglie che gli sta dilapidando un patrimonio, che c'ha la ex suocera che lo chiama perché ha bisogno che gli faccia la spesa, non è esattamente qualcosa di seduttivo, siamo d'accordo? Terribile, come se una donna cominciasse a parlare delle vene varicose, delle ragadi, una cosa insostenibile. Ecco, e dopo, altra cosa, a proposito dell'uomo griffato, ecco, io in genere vado un po' controcorrente. Mi piacciono veramente poco le persone griffate. Beh, certo, perché sono dei burini, quello è chiaro, è normale. Degli assoluti burini, nel senso che se uno ha bisogno... Ma noi parliamo di potere d'acquisto reale, concreto, non della griff. Ma sì, guarda, senza soldi, inutile, cioè, togliamoci st'ipocrisia. Il bello dentro, a me, francamente, piace poco, se è solo bello. Sentiamo allora, proprio in conclusione, Barbara, che mi sembra invece di opinione il tutto contraria. Barbara, buongiorno, chiudiamo con lei. Buongiorno, buongiorno. Sì, io decisamente sono di opinione decisamente contraria, e soprattutto riguardo alla signora che parlava dell'anello di Bulgari e dell'altro che gli regalava l'anello che non sapeva neanche di chi era. Io trovo una cosa sconvolgente, trovo una cosa che come donna, secondo me, ritenersi tale è una cosa... Che non sta in cielo, né in cielo né in terra, perché... Ma no, non è che voleva porsi su un piano di mercimonio, do me stessa in cambio di anello. Dice, se proprio una persona mi fa un regalo consistente, è una dimostrazione di piacevolezza, una sensazione di piacevolezza superiore a un regalino miserrimo. Meglio non regalare nulla. Ma non è una dimostrazione di affetto. Cioè non ma non si parla di affetto, qua si parla di passione, affetto è un'altra categoria. Qua si parla di passione, di fascino, di sentirsi presi, sentire la voglia totale di abbandonarsi a una persona. L'affetto è una cosa sacra, ma è in un altro ambito. Qua significa lasciarsi andare. Non troviamo sempre la giustificazione del rapporto affettivo. Si parla di passione, è un'altra cosa, è il perdersi. E abbiamo capito, almeno dalle testimonianze delle persone che hanno chiamato, che ci si perde più piacevolmente se chi ci prende ci viene a prendere con una bella macchina, è ben pulito e ci fa anche un bel regalo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.